Qual è il potenziale dell'uso del mezzo artistico nel coinvolgimento di ragazzi e ragazze adolescenti? Cioè, come si fa a coinvolgerli? L'approccio che uso di solito e che si potrebbe usare è quello che noi usiamo comunque per fare i laboratori teatrali, nel senso che non c'è niente di pronto, ma tutto è preparato, quindi si cerca di in qualche modo ascoltare il più possibile quali sono le idee per ricondurle comunque inizialmente a dei mezzi e dei modelli che abbiamo già a livello di mestiere col teatro acquisiti. Poi è chiaro che quando nasce fiducia, quando non c'è più giudizio, quando comunque si inizia a collaborare davvero, dopo un po' di tempo è chiaro che si possono anche intraprendere strade completamente diverse. La continuità è una gran cosa. La continuità ti permette comunque di consolidare qualcosa che è esperienziale, qualcosa che conosci già, e raccontarlo ai ragazzi, fargli vedere che comunque c'è un'esperienza di fondo, c'è una rete che porta in un processo artistico comunque al risultato. Però allo stesso tempo, quando c'è fiducia e quando inizia a esserci un progetto, è chiaro che dopo quella rete la puoi togliere, modificare. Niente ti vieta di andare completamente contro tutto quello che hai detto fino a quel momento, e quindi andare per un'altra strada. Si tratta solamente di creare gruppo, di creare un gruppo che possa in qualche modo mettersi a nudo senza aver paura di essere giudicato, e questo secondo me è una cosa che nel teatro può nascere. Da lì in poi voi direte: cosa c'entra? Boh, non so, mi piace pensare che i progetti hanno un'anima e si fa progetti in questa maniera, cioè mettendo in campo idee, e le idee nel teatro sono fondamentali, sono quelle che coltiviamo nel teatro per poter poi fare spettacoli, ma anche no, lo dicevo prima, quando c'è un posto che ci piace la prima cosa che io penso è: ma qui non ci facciamo uno spettacolo? Ma perché? Perché lo sguardo del teatro rivela, svela in qualche modo, quindi in un posto che abbiamo frequentato tantissime volte, ci siamo passati mille volte, farci uno spettacolo, chiedere alle persone di rimanere, di ascoltare, di guardare, quindi aumentare la soglia dell'ascolto in quel luogo, rivela quel luogo. E mi piace pensare che le idee, i progetti e i ragazzi, se sono ascoltati, se sono messi come protagonisti con difficoltà, non è uno schiocco di dita, però sicuramente si rivelano.